siamo ovviamente contrari a ogni forma di allevamento e limitazione della libertà di movimento degli animali, ma per realizzare un incontro con gli abitanti del mondo acquatico e raccontarvi le loro differenze e peculiarità emotive e di temperamento non abbiamo avuto scelta. Barbara lavora a Fasano con un gruppo di delfini nati, purtroppo, in cattività. Grazie alla sensibilità di Barbara e alla sua familiarità con questi delfini, otteniamo un affresco curioso e divertente della loro vita emotiva. Cambia qualcosa nel nostro sguardo verso le forme di vita marina, scoprire che anche tra gli acquatici esistono linguaggi, relazioni, conflitti e legami non così dissimili da quelli a cui siamo abituati? Ecco, qua Fasano Golia. Golia è... sì, Golia è fantastico. È pigro, è uno dei rari delfini pigri. È fantastico perché è paccioccone, è un animale molto equilibrato e lui è anche molto coccolone, che non tutti i delfini infatti vanno rispettati anche in questo, che magari vedendoli da fuori uno si immagina qualsiasi delfino molto coccolone, invece non è sempre così, a parte dipende anche dalle fasi, perché quando hanno la fase sessuale amano meno essere toccati, invece quando sono più tranquilli amano di più. Golia invece è uno proprio paccioccone, Golia è proprio uno, un piaccione, il classico piaccione, viene lì, ti accarezza. Qui abbiamo 4 maschi adolescenti, ce n'è uno giovane che si chiama Achille, che combina un sacco di guai, e ad esempio Golia è sempre pronto a difenderlo anche quando non dovrebbe, perché se ci fosse la mamma di Achille, e le mamme sono molto severe, invece Golia, Achille è sempre lì che se lo prende tra le pinne. Beh, una cosa speciale è stata commovente anche, è stata due mamme, Candy e Isa, avevano dunque nel 93 sono nati Tabo e Golia, che adesso in questo momento sono qui da noi. Dopo 3 anni entrambe, sempre loro hanno avuto sempre i figli nello stesso anno, dopo 3 anni entrambe hanno avuto altri figli, una Ulisse e l'altra Silver. Nel frattempo i due figli maggiori erano da 2 anni in un'altra vacca, sempre lì a Riccione, quindi non si vedevano con la mamma. Sai che negli altri mammiferi, a parte noi e forse credo delle scimmie, cioè quando hanno un'altra figliata, quella precedente viene allontanata. Invece loro, Camilla, quando li abbiamo riuniti, io ero sulla vasca, i due figli maggiori erano ancora nella strada, nel camion. Le mamme l'hanno sentito 10 minuti prima che arrivasse il camion, hanno cominciato a fare un verso stranissimo, che no. Noi abbiamo detto non è possibile, no. Tutti dicevano no, è una coincidenza, non è possibile, e invece appena li hanno portati su con la barella, li abbiamo messi tutti insieme e ogni nucleo familiare è andato via, mamma, figlio grande, figlio piccolo, e non si erano mai visti tra l'altro questi fratelli, e anche l'altro, mamma, figlio grande, figlio piccolo, tutti un accarezzamento. Poi so che anche il CNR ha fatto parecchi studi, che ogni famiglia ha ogni delfino, diciamo, ha un suo timbro, che si suppone che sia come un nostro ciao Barbara Marchiori, ciao Camille, cioè come dire un suono che è una firma, un preciso suono che appartiene a quella famiglia lì, e infatti tu li vedi quando si riuniscono della stessa famiglia, hanno un suono particolare, bello, quello è stato commovente. Poi tanti altri aneddoti, ma riguardanti più che altro l'intelligenza, la scaltrezza, per esempio Pelé, che è una delfina che ha 50 anni, che ne sa una più del diavolo, è fortissima. Lei è come tutti, vengono premiati ogni volta che ti riportano un oggetto, perché sai, magari possono essere oggetti pericolosi, soprattutto il vecchio delfinario, dove la gente comunque aveva abbastanza contatto con la vasca, a volte un signore ha caduto un occhiale, oppure un bigliettino di carta, quindi anche quando ti portano la fogliolina secca, premi lo stesso, o con una carezza, o con un pesce, comunque un qualcosa che a loro piace. Un giorno c'era vinto Pelé, ti giuro Camilla, ci ha portato 200.000 frammenti invisibili di foglie secche. Io ho detto, ma dove va che andava giù? Sono andata all'oblò a vedere, aveva nascosto un plico di foglie secche sotto il tubo del sub, e lei ne rompeva un frammento alla volta. Per venire premiata. Esatto. Grande. Anziché portarle, che uno senza esperienza li avrebbe presi tutti insieme, invece lei un frammento alla volta, e quindi tanti premi. Che furbacchione, incredibile, sì. Bellissima, sì, questa, sì, storia. Sì, infatti. Il

questo e mi fa pensare che forse sarebbe da tutelare il sentimento di coloro che entrando in ristorante devono passare davanti a quei frigo con tutti i pesci con l'occhio vitreo esibiti sul ghiaccio. È un po' come vedere le porchette, un salame viene dal maiale ma ci sono gradi di oscenità e la porchetta tagliata progressivamente al supermercato fino agli occhi è più oscena e il pesce con l'occhio vitro sul ghiaccio è più osceno. Io sono convinto che saremo di stupore a noi stessi tra qualche decennio pensando a quello che stiamo facendo. Signore e signori, adesso le news. Sabato 9 giugno alle 10 nel Parco delle Cascine di Firenze si svolge la maratonina a sei zampe con i propri amici quadrupedi. Si tratta di un percorso tracciato all'interno del Parco delle Cascine che prevede tre tappe lontano dal pericolo del traffico con delle aree speciali dedicate ad attività di gioco ed educative in collaborazione con la SIUA, Scuola Interazione Uomo-Animale. L'iscrizione di 5 euro va a favore di Pro Animals che lo destinerà a cani e gatti abbandonati. Il ritrovo è alle 8 in piazzale Kennedy. Partenza alle 10, le iscrizioni sono possibili fino a un quarto d'ora prima. Munirsi di guinzaglio e paletta. Per informazioni www.proanimals.it. Nel ricordare gli operai vittime del terribile terremoto che la settimana scorsa ha colpito il centro nord, non possiamo non pensare anche agli animali vittime dei crolli degli allevamenti in cui erano detenuti senza poter scappare, rimasti schiacciati dai tetti delle stalle collassate, prigionieri delle macerie. Sono numerose, tantissime, le creature non umane che hanno pagato sulla loro pelle. In un allevamento in Emilia, il sisma avrebbe provocato la morte di circa 50 maiali. Una quindicina di maiali è stata ritrovata ferita e il soccorso si è concluso con un compassionevole sgozzamento e la macellazione in loco. Anche tantissimi altri animali illesi, ma ormai impossibilitati a rimanere all'interno dei capannoni crollati, sono stati trasferiti al mattatoio e uccisi. Non ci sono ancora notizie in merito a canili e gattini della zona. È stata ritirata l'ipotesi di tassare gli animali domestici. La proposta, dopo un iter iniziato nel 2009, era arrivata alla Commissione Affari Sociali della Camera e prevedeva che i comuni potessero istituire una tariffa per i proprietari di cani e gatti destinata al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto del randagismo. Durante l'iter era stato anche approvato un emendamento dell'Italia dei Valori per esonerare dalla tassa i cittadini che hanno adottato un cane o un gatto in una struttura comunale. Alla fine il provvedimento è stato ritirato. Cani e gatti non sono un bene di lusso, come sanno bene tanti tra i nostri ascoltatori che ospitano in casa cani e gatti spesso salvati da situazioni difficili. Altro che tassa, in molti casi servirebbero incentivi maggiori per chi vuole adottare un trovatello. Dalle profondità degli abissi marini, la redazione di Restiamo Animali riaffiora per ricordarvi che troverete fotografie, contenuti, ricette, interviste e il podcast di questa e di tutte le precedenti trasmissioni su restiamoanimali.wordpress.com e che potete scriverci a restiamoanimali@controradio.it. Brigitte Bardot. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali.